fare tutta la... Resto Radio Convento, per raccontarsi, per raccontare. E buonasera ragazzi, noi siamo in diretta con Risto Radio Convento. Io sono in compagnia di Christian, Andrea e Anna, Bruno. Perfetto ragazzi, e cosa festeggiate stasera riuniti tutti insieme? Vai, vai. Puoi dirlo tu. Allora festeggiamo il nostro Christian che è stato nominato dirigente scolastico. Wow, bravo, bravo. Grazie. Un applauso. Virtuale per Christian. Mi fa piacere perché anch'io sono nell'ambito della scuola. Quindi cosa fai tu nella scuola? La bidella. Ok, per sempre. No, beh. Adesso scuola. Si chiama collaboratore scolastico. Sì, sì, sì. Dai, it's fatto it's un a po'... long way to dirigente scolastico. Ma non perdere la speranza. Anche il nostro Christian è partito dal basso. Dove fai? Dove lavori adesso? Adesso diciamo che per ora ancora qui, però qui in zona, provincia di Verona. Ok. Però presto mi trasferirò giù. Giù, come me, che sono salita in su e poi dopo vuoi scendere giù, ma poi io ci resto qui, quindi... Di dove sei? Di Napoli. Il nostro Christian è calabrese. Calabrese, me l'ha detto prima, me l'ha detto che è calabrese, calabrese. Sì. Quanti anni compie Christian? Oggi 32. Dai, portati bene. Oggi, domani 33. Domani 33, domani 34. 4, ogni anno aumenta, sì, un anno. Ogni giorno forza, aumenta, giusto, giusto, sì. Giusto, giusto. È normale. E l'amico è qui con le cuffie che ci ascolta. Ma ci, certo, fa una bella dedica? Ma gliel'abbiamo fatta una dedica. Ma dai, adesso qui dobbiamo registrare la questa dedica. Abbiamo fatto una rima molto bella. Com'era? Ti ricordi? Visto che lui si crede, te la faccio senza rima, visto, okay, che lui si crede un veneto ormai perché vive in Veneto, però mangia un po' troppo anduia, gli abbiamo fatto un bel regalo per compleanno. Sì, gli abbiamo regalato un salame nostrano con tanto di polenta, così si può sentire un po' polentone. Polentone, giusto, giusto, giusto. Poi quando scendi giù come fai senza la polenta? Mi farò mandare i pacchi. Prima me li mandavano da giù, adesso me li mandano da su. Questa, insomma, è bella, è tutto al contrario adesso. Sì. Vabbè, diciamo che ti è rimasta impressa allora. Sì, la... ormai ce l'ho nell'indole, ormai sono veronese. Oramai, ti senti proprio si veronese? Si sente anche dall'accento, sì. Solo io non mi riesco ad abituare, mi sento sempre napoletana e non riesco, sì, proprio a cambiare. No, ma non senti lui che accento che ha preso da, cioè, da Verona? Sì, sì, infatti non l'avrei mai detto che è calabrese. È capitato. Adesso si sente, ma prima non si sentiva. Siete tutti calabresi? Io calabrese, siamo a lui. Ah, ok. Voi invece? Io sono da Bolzano. Bolzano, beh, lui è del nord. Non si sentisse. Non è vero, mi sto prendendo in giro. Io di Verona, circa. Ok. No, io sono anche io di Verona, ma tento di parlare tedesco come i bolzanini. Perché poi questa cosa? Perché insegno tedesco nella stessa scuola del nostro dirigente. Quindi... Questo lo tirerò giù, No, non va bene, questo. Non va bene. Vedi, sì, che sì, sì, anche se lo conosci non significa nulla, Non è perché hai un favore, no. Va bene ragazzi. Perché in gamba, per questo me lo voglio portare giù, non per favoritismo. Perché lui non vorrebbe venire. Lui è veronese, figurati se se ne va da qua. Ma mi sta convincendo a trovare un lavoretto soverato in realtà, sul Marionio. Soverato, non è che... Lo so, ma guarda che i veronesi sono duri, non è che te lo porti velocemente. Non sanno neanche come mangiano, figurati. Vabbè, per loro Verona è Verona, c'hanno l'arena, per loro Verona è Verona e non si muovono da lì, Sì, vabbè, no, Verona è una bella città, però non sarà mai come Soverato. Però non ci sono i bronzi di Riace a Verona. Nemmeno. Il bronzo sei tu, dirigente. Mamma mia. Ma voi lavorate anche voi nella scuola? Sì. Ok. Sì, no. Tu no? Lui lavora e non lavora. Lui è direttore dei servizi igienici, là, come se... No, aspetta la distanza, questo di che... Lui è DSGA. Direttore dei servizi amministrativi, no? DSGA, ma... Diciamo, lavora nella ce scuola. Ce l'avevo non quest'anno lavora. Io un DSGA così, no? Invece la mia è una grande donna per lavorare. Ma noi siamo tutti... Ma dove... perché non la mandi in Calabria, la tua DSGA? Sì, siamo tutti in Calabria, per me. Sì, sì, sì, ma volentieri la manderei con tutto il cuore, guarda, per non dire dall'altra parte, ma apriamo e chiudiamo. E tu invece cosa fai? Io lavoro sempre a Bologna. A Bologna? DSGA. E tu invece? Io insegno sempre nella stessa scuola qua dei colleghi. Cosa insegni? Sostegno, okay, e poi sono abilitata su diritto, che è la mia materia. Ho capito. Ma mi sento a casa, ragazzi. Siamo tutti professori qua. Sì, sì, è bello, bello, mi fa piacere. E io vi lascio divertire, okay, perché grazie. Sennò la serata non va avanti, diciamo, deve continuare. Abbiamo finita. Un dirigente Proviamo. Che deve dare spettacolo. Certo, questo è da riprendere. Assolutamente. Come minimo. Va bene, ragazzi, io vi ringrazio, è stato un piacere conoscervi e vi lascio divertire. Grazie, grazie mille. Ciao.